Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Non solo un grande sportivo, ma soprattutto un grande uomo. L'uomo che ha lottato sempre in prima fila per i diritti civili. L'uomo che si è sempre esposto e non si è mai tirato indietro. Cassius Clay, Muhammad Ali, campione del mondo dei pesi massimi, simbolo della lotta all'apartheid. Vola come una farfalla, pungi come un'ape. Battiti, uomo, battiti. I am a tall tree, oh, I am a swift wind, sweeping the country. I am a river, down in the valley, oh, I am a vision, and I can see clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest, and I'm that little bit of hope. When my back's against the ropes, I can feel it. I'm the world's greatest. The World Greatest, il più grande del mondo. Muhammad Ali ci ha salutato l'ultimo combattimento. Ricordo è molto bello, questa è la colonna sonora del film Ali di Michael Mann con Will Smith, che ho avuto la fortuna di doppiare in questo film, e quelle parole volano come una farfalla, pungi come un'ape, ancora risuonano nella testa, per cercare di dargli il giusto peso. Va bene, un altro grande ci ha salutato, però noi siamo qui sì per ricordare, ma anche per raccontare che cos'è il mondo della voce, quello di cui ha fatto parte sicuramente non soltanto da quel punto di vista sportivo, ma quello della voce. E che voce, quella di Cassius Clay, anzi, come lui amava essere chiamato, Muhammad Ali, perché Clay era un nome da schiavo. E allora cominciamo subito questa nuova puntata di Voice Anatomy e con un ospite che vado a raccontarvi. Non è qui vicino a me per telefono per problemi di varicella alla sua età, ma quella è colpa sempre dei bambini, ma ce lo faremo raccontare dalla sua viva voce, visto che di voce parleremo. Ve lo presento con una breve biografia, anche se non è così breve, però racconteremo i punti salienti. Dunque, 39 anni, è di origini romane, è un attore, musicista, compositore, arrangiatore, pianista, insegnante di armonia e orchestrazione sinfonica. Mamma mia! Nel 95 ha iniziato la sua esperienza in teatro con i Favete Linguis, trio formato con sua sorella Emanuela, cantante Tony Fornari. Ha composto colonne sonore, sigle e commercials per Rai, Sky, Fox, musiche per oltre 60 spettacoli teatrali, tra cui Giulietta e Romeo per la regia del grande Gigi Proietti. Ed è lui l'autore, pensate, della sigla iniziale di Romanzo Criminale, in cui ha recitato nella parte di Erzecco. Al cinema l'abbiamo visto ovunque, anche nei film Viva l'Italia, Smetto quando voglio, Noi la Giulia, mentre in TV ha partecipato alla nota serie Un medico in famiglia. È padre del piccolo Lorenzo, credo che sia lui che gliel'abbia attaccata, ma lo sentiremo, ed ha conseguito il diploma in conservatorio. Manca il nome e il cognome, lui è Stefano Fresi. Ci sei, Stefano? ci sono. E lotti insieme a noi. Ci e sei? Lotto insieme a voi, però voi lottate con la vita comune, io lotto con i bacilli della varicella, che, come giustamente detto, mi ha passato il mio figliolo Lorenzo. È così, questo è quello che accade in famiglia. Io ti devo subito un ringraziamento. Primo, perché insomma, parlare di voce con te già è una cosa molto, molto esaltante, insomma, perché sono delle mie voci preferite. E poi perché mi hai dato 39 anni, ce ne ho 42, io ti ringrazio. Ma... Senti, te la devi prendere. Io colgo l'occasione per salutare il capo progetto autrice Alessia Navarro e l'altro autore importantissimo che è Mauro Meconi, che oltre ad essere un autore, ovviamente è anche un autore che tu conosci, è un attoraccio con cui hai condiviso il Romanzo Criminale. È lui che ha messo 39 anni. Perché io ho detto, guardate che Fresi, calcolando la storia, li devo a lui. È lui che ti ha levato 3 anni, non so per quale motivo. Se mi portassi i chili come mi porto l'anni. Ah, guarda, sarebbe straordinario. Secondo me i bacilli non potevano non prenderti, perché insomma no, non possono non vederti quei bacilli. Hai capito? Cioè, secondo Stefano... me comunque ci si scontrano, andando via anche. Ma anche secondo me a un certo punto diranno, io me ne vado, ma che ce lo so fare qua dentro sto corpo, sti corpi? Ma non è quello, ma è anche la tua grande forza, a parte essere un grandissimo professionista. Io ti conosco dai tempi in cui cantavi già da Dio ed eri... Sospetti, tu, no, sì, non so... Sì, ma la bellezza del ruolo di questo parcheggio straordinario che ho trovato nel cinema è bellissimo, perché lì fortuna, ma la fortuna che ti trova anche preparato, perché qual è il tuo start-up nella carriera? Perché l'hai cominciata proprio giustamente, come bisogna fare una carriera? Dal basso, come tutti, la giusta gavetta. Io ho cominciato in teatro con i Favete Linguist, ci sono arrivata la musica col teatro, perché insomma mi ci ha portato certo. La musica, ho cominciato a fare un po' il pianista di scena, a scrivere musiche di scena. Poi ho messo su sto trio vocale che tu ben conosci, che facendo repertorio un po' dei Cetre, un po' insomma facendo il verso ai vari gruppi vocali della storia della musica. Sì, ma con grande ironia, con grande professionalità, straordinario davvero, andatevelo a cercare. Se vi piace lui come attore, che qualcuno magari non sa che sei, che sei un cantante straordinario, ma sei un attore simpatico, bravo, eccetera, ma non sa questo passato e presente da grande musicista, per cui con loro. E poi il cinema è arrivato perché proprio grazie ai Favete Linguist, io ho lavorato anche con, insieme ai Favete Linguist abbiamo lavorato con il buon Attilio Corsini del Teatro Vittoria, sì. E lui ci fece fare una riduzione musicale dei Tre Moschettieri, sì. Le musiche le ho scritte io, noi tre Favete facevamo i narratori, D'Artagnan era Riccardo Scamarcio. D'Artagnan era Scamarcio, niente male, cioè a 12 era anni, era un ragazzino proprio che c'era avuto 20 anni, 22 anni. Però devo dire che il grande Attilio Corsini, per chi non lo conosce, non c'è più ovviamente, ma ha avuto delle intuizioni straordinarie. Nel teatro, fece un teatro aperto europeo incredibile, in tempi non sospetti, vero, veramente bravo. Sì, e insomma, sì. Michele Placido venne a vedere Scamarcio per fargli fare la parte del nero, e sì. Ha preso a lui per fare nero e a me per far secco. Ed è stato bellissimo, perché mi ha detto, se vate fa un provino. L'hai letto il romanzo criminale? L'avevo finito 2 settimane prima, pensa di leggere. Ho detto, come no? E allora vieni martedì in Cattleya e facciamo un provino. Sono andato martedì in Cattleya e non ho fatto nessun provino. Mi ha dato il copione e ha detto, ti sei al secco, mi sono inventato sta cosa che canti nei locali come copertura, quindi pensa a 2 canzoni dell'epoca. Ah, perfetto. E io ho scelto Estate, Chihuahua e quella roba lì che lo vedi, quando lo startup però significa tanto quando ti trova preparato. Tu venivi da una storia già importante che ti trova, dice la fortuna, sì, la fortuna, quando apri la valigia ed è piena di cose, e dai. Esatto, questa fortuna che tu hai nominato, io devo dire che sono grato a te di aver detto questa cosa, perché è vero che io sono convinto che il talento serve a tenerti dove la fortuna ti mette, perché io sono cosciente del fatto che ci stanno 40 attori più bravi di me che non hanno avuto quell'occasione che ho avuto io di uscire fuori. Quindi questo conta. Poi certo, se tu non sei preparato e non ci sai rimanere, è un problema tuo. Ma infatti è quello che auguro sempre a tutte le persone che cominciano. Io spero che voi prendiate una bella capocciata all'inizio, ma anche 2 o 3. Fasse male un po', sì. Fasse male per poi capire come... Ma che poi sai ricominciare. Cioè, tu domani dovessi passare un momento di flessione importante. Ovviamente non te lo auguro mai a nessuno, però sai perfettamente da dove ricominciare a quel punto. Sai dove rimetterti in macchina. Nella 500 no, perché non c'entri, Stefanuccio mio. Non puoi ricominciare dalla 500, magari una macchina familiare. Quello sicuramente, anche perché dove metto una esatto, quello è, ma poi la gente lo sa, vedi, questa è la grande dose anche importante della grande autoironia. L'autoironia per tanti è soltanto la marca di una macchina, l'autoironia, ma invece è quella che ti spinge, è quella che ti fa fare sicuramente delle cose più importanti. Senti, ti senti più musicista o più attore a questo punto, Stefano? Ma guarda, vanno abbastanza a braccetto le due cose, nel senso che non credo che potrei fare l'attore come faccio se non avessi la musicalità che mi ha dato lo studio della musica, perché credo che servire una battuta sia anche un fatto di orecchio musicale, e quindi magari sono un tipo di attore perché ho avuto questo tipo di percorso. Non so se c'è una... Sicuramente mi sento un po' più le spalle coperte dal punto di vista musicale, perché ho fatto gli studi accademici, cosa che invece dal punto di vista della recitazione ho fatto sul campo. E che però... è una cosa migliore, eh? Però infatti, cioè, comunque sia, alla fine se stai con gli occhi aperti non sei proprio un trucco di legno, c'hai la fortuna di assistere a proietti che fa una regia, vedere certo. Attilio Corsini che lavora 4 anni con Dino Verde, o se in ciocco di legno e ti passa tutto addosso, forse qualcosa in campo. O riesci a rubare, come si dice. È meglio stare in sala operatoria, i chirurghi devono operare, gli devi mettere in mano quel coltello. Senti, il primo blocco insieme si sta esaurendo, ti tengo un paio di blocchi dopo di te, ci ha già raggiunti il grande Francesco Pannofino, che poi ti farò salutare. Un abbraccio grandissimo. Che è la cosa, ma sto in ritardo, mannaggia, sto motorino con la sua bella vociaccia. lo dice come lo dice lui, va bene. Sì, a me vedo di farmi di cagna maledetta, cagna maledetta. Ma tanto te lo faccio salutare se sta prendendo un buon caffè. Senti, però ci salutiamo in questo blocco facendo sentire un pezzo, poi dei Favete Linguis, Calciomania, dove che meraviglia. Sentite, poi rimani qui con noi, poca pubblicità e torniamo insieme. Va bene. Tra pochissimo. Ciao. Dopo, ciao. Come vedi, anche io come te sono omosessuale e volevo farti delle domande su quella sostanza che hai appena assunto. Ma tranquillo, è in forma totalmente anonima, perché è una ricerca scientifica. Che cosa fai? Grazie. No, volevo chiederti, ecco, ad esempio, questa pulsione erotica nei miei confronti che tu non riesci proprio a trattenere, dipende secondo te da quello che hai preso? No, ti piaccio proprio io, ti piaccio io. Vabbè, non fa niente, grazie. Dai, basta, dai, basta. Voice Anatomy. Come promesso, eccoci di ritorno a Voice Anatomy. È appena cominciato, sono le 14:45 minuti e 37 secondi. Stefano Fresi dall'altra parte del cavo di telefono, perché è pieno di varicella. per cui è pieno di varicella. Ragazzi. No, e te durerà un po' di più. Senti, prima abbiamo sentito, voglio sentire, vabbè, un pezzo del grande successo, un grandissimo successo che Smetto Quando Voglio, che è stato il film che ti ha dato proprio, credo, la definitiva consacrazione. Sì, ti ha cambiato la vita, dalla vita in giù, dalla vita in su, poi bisogna decidere quale punto di vista della tua vita. La vita ha cambiato il tipo, però. La vita te l'ha cambiato. Senti, prima era Smetto quando voglio il pezzo, non era il pezzo di Favete Linguis, Calciomania. No, era Smetto Quando Voglio, era un pezzo di Trailer. Dai, però, ma io sono un tecnico del suono, devi sapere, che è Valerio oggi, non è Alessandro, che è un portatore sano di romanità. Allora ci piace, dei nostri. Esatto, e dei vostri. Io fortunatamente al mio fianco, poi mi ha detto una battuta prima, certo, viene Francesco Pannofino, due razziali insieme, è sempre più raro vederli, insomma, ci stanno queste battute, quando dimenticano che Radio 24 è una radio che va in tutta Italia, anche in Europa, e questa trasmissione, grazie al piacere della gente, anche all'intelligenza della trasmissione, non parlo di me, parlo degli autori, ovviamente, che è arrivata a 400-500 mila unità, insomma, che non sono poche, e allora devo convincerli che andiamo un po' dappertutto, non bisogna essere così regionali, va bene? Vabbè, lasciamo stare queste cose. Senti, tra tutti i lavori, è finito il campionato, e fra tutti i lavori, a quale sei più affezionato, Stefano? Tra tutti i lavori, beh, sicuramente Smetto Quando Voglio, un po' perché è stata la cosa più divertente del mondo, poi perché mi ha cambiato la vita, però devo dire che se la combatte con noi la Giulia. Sì, anche quello è un bellissimo film. Noi la Giulia, da un punto di vista umano, è stato pazzesco, perché abbiamo fatto una gita di un mese e mezzo a Matera e sono nate delle amicizie profonde. Ti dico, guarda, ci siamo aperti una chat, il solito gruppo su WhatsApp per le cose logistiche, no? Oggi giriamo questo, domani quello, domani quell'altro, e la chat è ancora attiva, l'ultimo messaggio è di stamattina, di Claudio Menzi. Cioè, ancora ci si scrive tutti i giorni, sta cosa è bellissima. Claudio, pure voglio cercarlo, perché non ho più il numero e devo cercarlo per averlo, esatto, per averlo ospite in questa trasmissione. Poi Claudio è veramente un caro amico, anche lui ci divide qualcosa dei colori, ma insomma non è un problema, Claudio, hanno sempre detto, ma voi litigate durante il derby al cuore? No, so io che lo calmo, che è diverso, perché se fosse per lui sarebbe litigato dall'inizio alla fine, però grande cuore, insomma. Senti, per Smetto Quanto Voglio hai ricevuto la candidatura come miglior attore. Candidatura come miglior attore non protagonista. David è una grande cosa. Vincerli i premi com'è? Non vincerli è bello applaudire. Hai visto, guarda, in America ci sono i primi piani degli attori e lo sanno che sono inquadrati, per cui se vince quello vicino, allora, non emettono lo sguardo, guarda, che lo... Dimmi. Io sono molto onesto, ti dico, nel senso, se avessi penso di aver fatto un buon lavoro, quindi di aver meritato la candidatura. Però c'era Gifuni che ha fatto il Capitano Umano, ha fatto un ruolo della Madonna, quindi in quel caso sì. Chapeau, capito? E lo perdi volentieri. E poi comunque ti devo dire che la più grande vittoria che si potesse avere era avere 12 nomination per una commedia, che è stata una vittoria straordinaria in Italia, succedeva da un secolo e mezzo. È vero, perché pensano sempre che la comicità sia serie B, esatto, la cosa più esatto, complicata del mondo, dal presupposto che è una cosa di serie B, e invece non lo è assolutamente, e avere 12 nomination è stata una bella prova. Senti, qui, come al solito, tanti ciao da tutti quanti, perché poi Radio 24 è molto attenta e poi fanno le domande, sono autori, qui mi riprendono sui congiuntivi, sulla storia delle parole, qui Radio 24 bisogna stare meno, guarda, con me campano proprio alla grande. Ciao a tutti, la domanda per Stefano, a parte i complimenti di altre persone, nella simpatica sì, partecipazione nel video di Edoardo Ferraio nella serie Esami, sono tutti su YouTube, fa un'ottima interpretazione del napoletano. Ha avuto modo a teatro di cimentarsi nelle opere napoletane? Penso no, non l'ho mai fatto. Ha fatto il napoletano, hai fatto? Ho fatto il napoletano soltanto su esami di Edoardo Ferrario, che è una cosa divertentissima, una webserie divertentissima di questi poveri studenti fessati dagli insegnanti, fra questi ce n'era uno che ero io. Adesso il professore napoletano, un po' così, questi un po', non ti preoccupare, cose così. Tu vieni da un piccolo paese come Marcellina, vero? No, allora io vengo da Roma. Vieni da Roma, però Marcellina? Centocellaro. Poi intorno ai 16 anni, siccome ci sentiamo più a casa, perché io ho cominciato a mangiare, nonna stava in camera con me e mia sorella, e abbiamo deciso di cambiare casa, siamo andati a vivere a Marcellina. E lì ho conosciuto i fratelli Fornari, con cui poi sono nato un sodalizio artistico, mi sono nati Fave de Linguis, però vengo da Roma. Le origini sono sarde, in realtà. Pensa. Ma figlio mio, fa pace con la nazione, con la geografia, un attimo. Origini sarde. No, hanno scappato in Venezuela, se per questo, c'ho di tutto, guarda. Ma quello avrebbe fatto... se famo manca niente. Avrebbe fatto tornare a Carrà, quello prima o poi, vabbè. Esatto, esatto. Perché tuo nonno è qui! È qui! Senti, che ci aspetta nel futuro? Allora, nel futuro prossimo, fra pochissimi giorni, bolle permettendo, dovrei cominciare le riprese di In Arte Nino, che è un film di Luca Manfredi su suo papà, il grande Nino Manfredi. Beh. Nino Manfredi sarà interpretato da quell'attorone gigantesco che è Elio Germano. Beh, e io bella, ho bella sfida, questo è come quando fecero Walter Chiari con il grandissimo, è difficile, sono cose difficili, sono ancora vivi. Io ho il grandissimo compito, insomma sono spaventatissimo all'idea, però anche molto molto emozionato, di fare Tino Buazzelli, che era grande amico di E allora, a questo punto, visto che tu fai Tino Buazzelli, c'è chi l'ha reinterpretato, che starà qui con me per un po' di tempo, un qualche minuto lungo, è Francesco Pannofino, che è il mio fianco. Ecco. Nero Wolf. Ciao, ciao Stefano, come ciao, stai? Ciao, bello eccolo. Mio. Stavo meglio. No, bello mio no. No, di ciao, ma bello mio. Beh, sono migliorato ultimamente. No, non è male, è vero. Ciao, perché? Ho perso qualche chiletto. Perché è distratto. Ecco, sì, no. Quello, come dice quello, non dice manco più bello de mamma, mi dice Ciuffo, dice solo de mamma. Io dice più manco. Si vergognava così a tanto. Stefano, ma l'età tua le fai venire la varicella? Sì, davvero. Ma zitto, guarda, zitto, guarda. E poi è pericoloso a livello ormonale. No, Stefano, guarda, mi sono salvato, perché appena ho visto che Lorenzo ce l'aveva, che il pediatra me l'ha confermato, mi sono fatto il vaccino, e allora mi ha preso in forma leggera. Però essendo comunque infettivo, non mi sembrava carino nei vostri confronti venire. No, ma te ringrazio, anche perché ci siamo figure noi, insomma, che poi attaccavo, ecco. Non è carino. Comunque è pericoloso, sai, io non troverei. Sì, è una bella rogna, infatti ci sto. Te porta a mangiare di meno sta varicella o no? No. Sì, perdo quei stessi duchini che ha perso pure Francesco, poi ci vediamo una sera a cena, se famo due bottiglie di vino e tutto recupera, tutto torna. E tutto torna come prima. Perché noi perdiamo i chili, ma ci ricordiamo perfettamente dove. E quindi poi si ritrovano. Sei distratto fino a un certo punto. Esatto. E gli hobby, Stefanuccio, a parte il lavoro che a noi ci piace tanto, il lavoro che facciamo, devo dire che uno lo ama proprio in maniera non è lavoro, cioè è divertimento, è veramente lavoro, uno dovrebbe divertirsi sempre in tutti i lavori che fa, è vero, è questo privilegio di campare della propria passione, ti permette veramente di vivere della tua passione, eccetera. Un hobby, uno sport lo fai? No, perché tu allora non io cammino fare. Perché qualsiasi altra cosa certo, sarebbe delle vere per l'articolazione, insomma respiro, cammino, certo. Parlo anche, mo indico anche questo lavoro mandibolare, oltre al mangiare anche il parlare. No, sono un grande camminatore, mi piace tanto, mi piace anche molto nuotare. Però hobby, ho l'hobby della cucina. E certo, non avevamo dubbi. Non avevi dubbi, però insomma a un certo livello. E ti stupirò, adesso puoi anche prendermi in giro. Dai. Per tutto il resto dei tuoi anni. Ho fatto un corso di cucina vegano-crudista, sto facendo le verdure a livelli spaziali. Ieri ho fatto dei ravioli di barbabietola, l'ho pubblicati su Facebook. C'è stata una marea di commenti. Pannofino ha fatto uno sguardo che sta a televisione. No, non fosse... ci posso credere, veramente. È una delusione. Sì, è per me della non me lo sarei mai aspettato. Per te, Voice Anatomy finisce qui. No. Di che parlo con te? Dopo che mi hai detto che hai fatto una verdura vegana, com'era? Ho, ho, fatto un corso di cucina vegano-crudista che potrebbe stupire. Vegano, sì, no. No, sì. No, ma ci piace molto. Allora, ragazzi, ma che tristezza, scusami, presa una tristezza. Mamma mia, che malinconia. Con tutto il rispetto per i vegani, ma tu che mi fai un corso, e come sarò così freddi? Che so, dicesse addio, cioè, al sesso. Ma io quando vedo Stefano Frisi penso a Mortadella, sì, penso a Bacchio Ascoltadito, al sorriso, alla gioia di vita. Gioia di vivere, mo mi viene una tristezza. Le pappardelle col tartufo, non lo so. Madonna mia, sto guardando con una faccia. Io non credo che ci fatto. Io non credo che adesso, siccome ti ho detto sta cosa, quando pensi a me te immagini una zucchina spaghettata. No, non arrivo a tanto. Mi immagino una nouvelle cuisine. Mi immagino uno con un po' di grasso, ma triste. Della sua. È come Ardo Fabrizi che mi parla di tristezza. Bucatini, burro, sugare, caglie di pollo. Dai, fa un'altra cosa. Mannaggia, mi sei salutato così. Vedi, mi è presa proprio, mi si è abbassata la tensione. Va bene, comincerò dalla prossima settimana a coltivare l'hobby della cucina romanesca grassa. Bravo, esatto. E la coda la faccio. Viva il colesterolo, no, sto scherzando, ovviamente, se no gente comincia a dire ma come, è una cosa così grave, quelle vini. Lo so, arriviamo da una parte all'altra. Senti, ti saluto con un contributo di Romanzo Criminale. Oh, meraviglia. Con quello lì ti saluto, saluto io anche tu. Io vi abbraccio, grazie infinite, vi lascio una voce vera, quella di Pannofino. Ciao, ciao Stefano, ti abbraccio forte, ciao. Ciao, ti abbracciamo. Non ti prendo in braccio perché non ce la faccio. Due, forse fate il giro. Considerati preso in braccio. Esatto, va bene. Esaltante. Ti abbraccio forte, grazie, grande Stefano, un bacio, ciao. I soldi del Libano non l'ho buttati dalla finestra, l'ho reinvestiti in un canale cinese. Sì, e l'ha reinvestiti per te, pezzo di merda, eh? Ma se tu ce vuoi stare... Ci stai pure tu. Lo possiamo fare insieme, ma senza il freddo. Quello è impazzo. Non si rende conto di che vorrei far girare i sordi come faccio girare i sordi io a voi. Io non ci posso stare sotto uno così. E tu la pensi come me. Qua ci sta solo uno che c'ha la testa per far capo. Sei te. Voice Anatomy. Eccoci, dopo Stefano Fresi, avete già sentito dai microfoni di Radio 24, Voice Anatomy, Francesco Pannofino. Ciao. Nasce il 14 novembre del 1958. Ma lo devi per forza. Dai, che te frega, sei un anno più vecchio che me. Attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, voce straordinaria di Josh Clooney, Denzel Washington, Kurt Russell, ma veramente ci metterei tre quarti d'ora per raccontarli tutti. Ha fatto anche un grandissimo Seven, Kevin Spacey, prima del sì. Pedicini dannata. Sì, sì, sì. Beh, opera giovanile. Diciamo. Opera... opera giovanile. Ce la sentiamo subito l'opera giovanile, un bel Seven, Kevin Spacey, subito, vai. Oh, un momento, tu hai solo ucciso degli innocenti, non confondiamo. Innocenti? Se è una battuta non fa ridere. Un obeso. Un disgustoso obeso che faticava a stare in piedi. Un uomo che se lo incontri per la strada chiami a raccolta i tuoi amici per fartene gioco insieme a loro. Un uomo la cui sola vista mentre stai pranzando ti faceva passare la voglia di mangiare. E dopo di lui l'avvocato. In cuor vostro dovreste ringraziarmi per averlo fatto. Un uomo che aveva dedicato la sua vita al denaro, ai beni materiali, mentendo con tutta la veemenza di cui era capace, dando così a volgari assassini e stupratori la libertà. Volgari assassini? Una donna. Volgari assassini come te? Una donna! Così orribile dentro da non riuscire neanche a sopportare di vivere solo perché aveva perso la bellezza esteriore. Uno spacciatore, uno spacciatore pederasta ad essere precisi. E non ci dimentichiamo di quell'altra infetta sgualdrina. Solo in questo mondo di merda si possono definire degli innocenti persone come quelle e rimanere con la faccia seria. Beh, bella. Bella, sì, non me lo ricordavo, però... Ma no, lì si sente che c'è, come diciamo sempre, un doppiatore deve essere un attore. Prima di tutto, sì. Quello assoluto. Quando hai intuito che la vita, il mondo dell'arte avrebbe fatto della tua vita, avrebbe fatto parte della tua vita professionale? Quando l'hai capito? Beh, di tutto l'ho sperato quando ero giovanissimo, insomma. Poi ci ho provato quando avevo 19 anni più o meno, ed erano gli anni in cui nascevano le TV private, quindi il lavoro del doppiaggio. Fine anni 70. Esatto. Arrivarono tutte queste anche di dubbio gusto, le telenovele, i cartoni animati, un po' così di serie B, eccetera. Però il lavoro aumentò vertiginosamente, quindi in quella infornata i doppiatori da 200 diventarono 2000.

È giusto? Sì, sì, sì. Allora, per sottolineare la giustezza di questo inizio di biografia, io me lo sentirei già questo signore che doppia Nicolas Cage in Via da Las Vegas. Ce l'abbiamo, vero? E allora, via, approfittiamone. E qui che c'è? Cosa? Ah, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Stava dietro il tuo orecchio. Non ho avuto il tempo di scriverti un bigliettino, visto che è tutto il giorno che stiamo insieme. Non rimane che aprirlo, baby. Su, avanti. Hanno il tuo colore. Secondo me dovresti portarne uno alla volta. Uno di questi e uno dei tuoi soliti. Voglio dire, io ne avrei preso anche solo uno, ma non me l'avrebbero mai dato. Infermiera! Come regalo. Ah! Stasera li metto. Sì, fallo. Dai, metti. Non ci riesco. Aiuto io. Così potrai sentirlo, caldo e affilato contro il tuo orecchio, mentre uno di quelli ti spinge la testa a faccia in giù, schiacciata fra i cuscini di qualche camera d'albergo. Mi sta provocando anche un po' di invidia, non dovrei dirlo, perché sono soltanto uno che veicola i protagonisti che si alternano a questi microfoni di Voice Anatomy, però già, insomma, no? Non te lo ricordavi? Guarda, eri tu. No, eri tu, ero io. Sì, sì, ero io. No, la cosa che mi ricordo è che sentendolo un po' così sembro uno scemo, ma nel senso lui era un alcolista. Alcolista vero nel film. A livelli, sì, proprio. Gli è costato anche un Oscar, insomma, in fin dei conti, no? Io sì, sì. La cosa che mi ha fatto piacere è stata quella. Non ho detto neanche il nome tuo ancora, pensa. Però già qualcuno mi ha mandato il messaggio, saluta Massimo Ghini. Io lo saluto. No, qui veramente lo saluto anch'io. Allora. Sì, salutiamo ti, tutti. Ti salutano già e non ho detto come. Lo dirò all'ultimo, vediamo se qualcuno ci arriva. No, no, immediatamente, non c'è nessun tipo di problema. No, ma, io non volevo parlare della questione del doppiaggio, perché questa cosa che è scritta su delle biografie, su biografie mi sembra insomma l'album delle figurine sì, nostro, è legata, ma in realtà io che parlo con una. Oltre che essere un attore, tu sei anche una voce, no? È andata via un altro attore che è un'altra voce. Esatto. Che invidio sanamente, perché ti ricordi che ti ho detto che io devo rifare un po' di scuola, che l'ho persa. No, ma è come andare in bicicletta, l'ho persa, doppiaggio. Però, dai. Però io sono onesto, dico le cose come le sento, perché ogni volta che mi risentono nei doppiaggi mia moglie mi dice: ma non sei tu? E lì ho capito che c'è qualche cosa che no, è sbagliato. È il complimento più bello, perché non devi sembrare tu. No, se è Massimo Ghini, quando fai l'attore è bello riconoscere il personaggio che stai interpretando e poi riconoscere l'umanità che Massimo Ghini come attore mette dentro al personaggio. Io però non ti devo occasione, no, in quell'occasione andai assolutamente dietro a lui, perché è forse l'unica vera grande interpretazione che poi lui ha fatto, nel senso fa sempre film abbastanza pop, chiamiamoli così. Sì, ultimamente è cominciata la grande con Birdie, con Nicolas Cage. Ti ricordi? Ecco, prima di quello, poi di vince questo Oscar e poi fa solamente... E dopo si è lasciato andare nei film d'azione e poi... Sì. Ghost Rider eccetera non eccetera. Lo pagheranno niente, evidentemente lo fa proprio per amore, sì. si fanno per amore certe scelte, si fanno così. Quando sei 10 milioni di dollari ti convincono in un attimo a fare un'altra cosa. Vado avanti nella bio, Massimo Ghini, tanto mai non indovinato che sei tu. E allora ovviamente continua la sua carriera attoriale con registi del calibro di Paolo Virzì nella Bella Vita e Francesco Rosi nella Tregua, che gli farà ottenere grandi riconoscimenti internazionali. Nel 2000 lavori anche a fianco di Sean Penn. Sì. Che hai fatto con Sean Penn? Ho fatto un film che si intitola in inglese Up at Villa, in italiano Una notte per decidere. Questo non me lo ricordavo. Con Anne Bancroft, Derek Jacobi, James Fox. Questo mi sembra che si dice, eravamo io, Gasman, Barry White. Barry White, Ipù. Era così. Robert De Niro. Pensa che ti faccio ridere adesso un'altra cosa. Io contemporaneamente giro te con Mussolini ed era... Tutti e due i film ambientati nello stesso periodo, 1939 e 1939. Lo facevo uno coi baffi e uno senza. Ti giuro, mi alternavo sui due set contemporaneamente. Ma dai. E con Sean ci hanno arrestato, adesso la posso raccontare, sono passati tanti anni. Hanno arrestato con Sean Penn, ma dove giravate? Ci sono, a Firenze, tutto ambientato a Firenze, perché tratto da un racconto di Somerset Maugham ambientato a Firenze, nella comunità anglo-americana di Firenze, quegli anni. Io facevo chiaramente in linea con il capo dei fascisti fiorentini, personaggio che Chrissy Scott Thomas, che è l'altra protagonista femminile, fa la qualsiasi. Sì, praticamente eravamo io, Sean Penn e lei, e i tre della storia, esatto. Diciamo, il triangolo. No, la cosa perché in realtà ci lega a Sean Penn un'amicizia un po' più antica. Un giorno, adesso è passato giudicato tutto, eravamo in moto io, Ennio Fantastichini e lui, alle 4 di notte, in con tre, due moto. Ah, in tre con la stessa una moto, quella di Ennio. Poi Ennio, ma anche piccolino, per dire. Ti puoi immaginare. Esatto. Che lo riportavamo in albergo, ma ti sto parlando del stavo riportando paleolitico, del paleolitico. Si era bevuto un goccetto qualcosa? A Firenze si scatenò la rissa davanti al Dolce Vita, che è questo locale famoso di Firenze. Che c'è Firenze. Notoriamente uno tranquillo, in fin dei conti. No? Estremamente tranquillo. Estremamente sereno. E quella sera c'era paparazzi, il casino con i paparazzi, insomma partì un rissone. E la cosa, la faccio breve, ridere... Perché ci portarono via, proprio la polizia ci portò via. Ci fu un arresto dopo questa rissa con questi paparazzi che erano stati non aggrediti. L'autista stupidamente era partito, aveva messo sotto, ma senza non nessuno si era fatto male. Veniamo portati di notte dentro un commissariato a Firenze. Io, lui e questi altri. Lei si chiama Sean Penn? Sì, vabbè, io sono Sean Connery. Ma il nome è cominciato, poi ti sto parlando, era... si parla del 2000, quindi 16 anni fa. 98, 99, sì, 2000, 2000, fai conto. Però lui non era... Voglio dirti, non è Pippo Baudo per il commissario alle due di notte che vede dei Pippo personaggi. Pippo Baudo lo riconosce. Pippo Baudo lo riconosce. Sean Penn all'inizio, e io dissi, perché questo mi dice, signor Ghene, ma che è successo? Ma dico, no, ti guardi, purtroppo una rissa. Ma poi il termine rissa è quelle robe da Dolce Vita, ecco, appunto, stavano sì. Dicendo. E insomma non lo ricordo, io gli dico Sean Penn il marito di Madonna, e sta cosa gli aveva confuso pure l'immagine. Insomma, per far terapia finisce questo, che arriva chiaramente un altro poliziotto più giovane, insomma chiaramente lo riconoscono e calmano i fotografi, sì. Ci dicono allora tutto a posto, adesso vi riaccompagniamo in albergo, solo volevamo chiedere una cosa, signor Ghini, glielo può dire anche lei, me lo dica, ci possiamo fare una bella foto insieme? Dico, ma come ci hanno arrestato che non faccio fare foto? E è finita con noi fotografati con tutti questi, e non di profilo, tutti quanti da fronte, senza di numero fronte, senza numero, con tutti i poliziotti intorno. Come succedeva a Elvis Presley, è successo a te, Sean Penn e Ennio Fantastichini. Assolutamente. Abbiamo cominciato così a raccontare Massimo Ghini, che rimarrà con noi ancora un altro po', ovviamente. Noi invece ci salutiamo per pochissimi secondi, e Voice Anatomy con Massimo Ghini è appena cominciata, tra pochissimo. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta Voice Anatomy. Ecco Massimo, abbiamo cominciato a percorrere la sua vita, cominciando da un momento di chiusura coatta in carcere, ma non ci siete entrati, è finita in foto, Ritornati, riportati in albergo. Sei rimasto in contatto con Sean Penn? Sì, con Fantastichini sì. Sicuramente sì, anzi è una persona meravigliosa. I nostri figli vanno pure a scuola insieme. Che bella persona, Ennio, non vedo l'ora di averlo, possederlo. Spero che tu lo convinca, perché è un orso che non esce dalla sua tana. Però la radio credo che riesce a convincere, è difficile convincere un collega. Che è un amico magari in televisione, perché comunque, come diceva prima Francesco, è formale, te devi vestire, te devi truccare, devi stare attento a come te devi muovere, come devi parlare. Sì, forse la radio è un po' più evocativa, anche se sei venuto con occhialetto, no, Ray Bangagliardo, sto vestito... usando questo perché è da vista, no, perché hai saputo qui che... fra Gaia, caporedattrice, capo Alessia Navarre, c'è un movimento femminile importante, per cui... posso dire che non mi sono accorto di niente, perché mi avete preso e infilato dentro allo studio, è vero, quindi... lo dico apposta adesso. Però sei pronto. Mi renderò conto. No, poi di che anno sei? Io stavo guardando, bisogna dirlo di che anno sei. Insomma, un anno distante. No, tu hai detto, sono diversamente giovane. Sì, però sei inversamente proporzionale all'età. Te lo sto dicendo da etero convinto, con tutto rispetto invece che chi non la pensa come me, ovviamente. Per l'amor di Dio, però non... Poi sai, siamo divisi un po' in tutto, io e te, insomma, ci unisce ogni tanto un derby, ma ci divide pure quello. Per cui adesso non volevo. No. Stai parlando sempre tu. Ricordati, quando ne parli tu per primo. Sì, perché vuol dire che sto soffrendo. Che dall'altra parte c'è una trasmissione che va dopo di noi, bellissima, che tutti convocati con Pardo, eccetera, Capuano. Ah, certo. Che certo. Loro, io lavorando qui la domenica, mi distrago dal campionato. No, e allora io, Capuano e Pardo, li chiamo mai una gioia, perché quando mi arriva il risultato mio, non lo cominciano dal gol che fa la Lazio e gli altri tre che ne subisce. Spiega, se no il pubblico magari non ci segue. Sì. Noi siamo legati da una sorta di destino oramai perverso. Che ogni derby veniamo interpellati in forma. Io sono stato anche con te quando abbiamo perso, sì, il 26 quindi... maggio, per cui con grande onestà. No, se no sì. Sempre. Però il problema è, dillo, che tu, ci è capitato spesso che lui mi chiama sotto il derby per ragioni anche diverse, sì, non per è motivi per altri. Ogni volta che mi hai chiamato, hai perso. È vero, e se non mi chiamo io, lui mi fa uno squilletto tanto per fare un recall, per avere un feedback. Ricordarci. Ha chiamato pure dal Sudafrica, mi sta facendo i complimenti della trasmissione che gli faccio accompagnare, che era Reazione a Catena, e poi ci fu il derby. Ho approfittato. Approfittato, ma c'è pure il derby, vabbè, lasciamo stare. Falso come la moglie, cioè, telefona per fare i complimenti, ma non è vero. Nicolas ha guadagnato tantissimi punti con la voce di Massimo Ghini, e io mi fido delle persone che chiamo e che sono duro, Radio 24, bene, pubblico bene, attivo e attento, e con me pure cattivo, mi corregge anche dai congiuntivi ai pronomi a qualsiasi altra cosa. Andiamo avanti. Dopo questa bellissima avventura con Sean Penn, anche la TV divenne subito una sua grande passione, come raccontano qui gli autori. Lo ricordiamo in Papa Giovanni. Sì. Il dottor Manson in Della Cittadella. Della Cittadella, lì è una riedizione bellissima. Io ero affezionatissimo a Alberto Lupo e Anna Maria Guarnieri, anche se poi risentendo Alberto Lupo non era così grande quanto bella voce. Però, meravigliosa. Però, no? C'erano dei momenti. Dei momenti di grande imbarazzo. Però era quella televisione che ci ha anche cresciuto. Bellissima. Nel pieno rispetto. Dove c'erano veramente, come dico sempre, gente piena tempo. Io ti amo. Ho fatto anch'io Io ti amo, lo sai come. L'hai fatto come lui? Cioè, nel momento in cui andavamo in onda ci fu Sanremo in mezzo. Sì. Allora era tipo quattro puntate. Le prime due puntate. Prima di Sanremo. Poi ci fu Sanremo. Allora, per tenere viva l'attenzione, Rai 1 mi mandò a Sanremo. Sì. E c'è, lo puoi vedere. Su YouTube. Cose, io e Serena Utieri, che non ci conoscevamo, nel senso poi avremmo dopo lavorato insieme, sì, che facciamo spinti da Pippo Baudo, dove farlo cantiamo Mina e Alberto Lupo, dove lei canta parole e io faccio Alberto Lupo, visto che stavo facendo, come se dire, sei così remake. Bravo, se si trova guarda come parte Valerio, perché prima l'abbiamo dice ma è possibile, abbiamo un tecnico del suono che non è pronto, appena Pannofino ha detto lui ha fatto una canzone per Boris e Chuck, e dico ancora non l'hai trovata, allora lui gli scatta la follia e comincia a cercare in un attimo, vedrai. Questo che però è meraviglioso. Parole Massimo Ghini, sì, e Serena Utieri. Ce n'è un'altra sua che ha cantato, mi dice ovviamente meno male che io faccio il doppiatore e leggo le labiali perché non sento. Sì, c'è un meraviglioso cantato da Massimo Ghini. Allora, nel frattempo, no, perché sei anche un cantante. Cioè, sono un attore che canta. Sei attore che canta, o sei un cantante che recita, come Fresi che abbiamo intervistato prima? No. Tu sei... Sono un attore che canta per il rispetto proprio dovuto ai cantanti. Però come sei intonato, quello. Però sì, meraviglioso, sì. Sei cimentato con qualcosa di... Ho vinto, guarda, quello viene dalla trasmissione che ho vinto, in cui no, ti spiego, insomma. Beh, che ho vinto. Non ho preso Davide Donatello, ma ho vinto quello. Quello ne parliamo. C'ho un microfonone grosso. Sì, Conti, Carlo Mamma, ha invitato a ai questa trasmissione. No, era una trasmissione che si intitolava Lasciami una canzone, fammi cantare. Ecco lì, perché l'ha scritto sicuramente nelle domande, Mauro. E allora io non sto seguendo prettamente filologicamente le domande fatte da Mauro, ma ci tiene a dirlo che è lui. Approfittai di questa cosa perché mi stavo preparando per fare la Cagiofoli, il vizietto. Ah, è vero. Allora, fare questa specie di, non so se di no, un talent, no, però io sbaglio sempre. Insomma, comunque c'era tutta la preparazione con i coach, i maestri, le cose. E allora dissi: guarda, lo trovo interessante perché vengo a fare una trasmissione in cui devo studiare, ho fatto un mese praticamente ogni volta di preparazione sulle canzoni. Quella però che mi fece vincere il premio fu Il Negro Zumbon. Come Il Negro Zumbon? Il Negro Zumbon di Armando Trovajoli. La dico subito perché quella me lo bocciavano subito, quelli della Rai hanno detto no, ma può scegliere un'altra canzone. Dico guardate, fatemi fare Il Negro Zumbon. Me l'hanno chiesta poi in replica la terza puntata. No, vedi che cosa succede. Questo è un omaggio a Mimmo. Grande tentativo. Hai trovato anche l'altra parola per noi. Però c'hai meraviglioso. Eccolo, Ghini, Massimo Ghini. Mamma mia. Meraviglioso. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Persino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Beh, bella. Me la ricordavo proprio. E qui sono bravi, io faccio tanto il guidatore, ma... Io mi presento a Sanremo, però, a sto punto. Ma fallo, Massimo, è mio, vincemo. Vogliamo fare Franco Primo e Franco Quarto. Esatto. Massimo Primo e Pinuccio Terzo. No, Massimo Secondo e Pinuccio Ottavo, per motivi di classifica. Non è male, bello però. Vedi, e tu hai messo a tu, perché, vedi, Modugno, grande interprete, tutto è come dice la parola stessa, sì. Interprete, perché lui era anche... Io avevo cantato in Alleluia Brava Gente le canzoni di Modugno. Se e Dio quella vorrà. Sì, me lo ricordo, era Rodolfo Lacanà il tuo compagno d'avventura. Il grande Rodolfo che ricordiamo sì. Comunque perché sì, starà a casa a capoccione. Sicuramente sdraiato sul divano. Diciamo sempre che lui fermo. In primo piano, meno male che hanno inventato il 3D, se non c'entravamo tutti e due in un primo piano. No, quello è bello perché poi hai avuto una grande preparazione, mi dicevi durante sì. La canzone chi ti ha preparato le stesse di Tale Quale Show con il quale ho avuto a che fare anch'io, bravissimo. La grande Fontana, che è un'insegnante straordinaria, e ha avuto pazienza e amore proprio. Nel... Però vedi, risentire una canzone così, perché sai, il paragone scatta immediato, invece è risentita così, con questa interpretazione. Non la sentivo che l'hai fatta proprio, tua, bella, bella, bella assolutamente. Senti, poi stiamo camminando ovviamente in regola della tua biografia, però ci sono delle domande molto belle. Per esempio, tuo papà fu un partigiano. Sì. No? È ereditato da lui la passione per la politica? Beh, sicuramente senza colori, qui non si parla di colori bianco, no, nero, rosso. No, tanto no. Mio volevo padre... ricordare tuo papà, che mi piaceva questa figura di papà. Ma... partigiano. Papà Lorenzo, noi siamo una famiglia di Parma, da parte dei Paghini. Ghini. Ghini non è un cognome assolutamente romano. Io nasco a Roma perché mio padre viene a lavorare a Roma, incontra mia madre a Roma, però loro sono di Parma, peraltro pensa poi nato prima in Libia, perché mio nonno da Parma si era trasferito in Libia per attività economiche, poi rientrato a Parma, allo scoppio della guerra si ritrova a Parma all'università, rifiuta la cartolina militare e parte in montagna a 20 anni, perché papà poi era del 24, quindi parliamo del 44, la notte di Natale, pensa, è terribile, il 24 dicembre del 44 viene arrestato sulla base di una spiata e torturato, processato e mandato in Germania, inizialmente dicendo a mio nonno che sarebbe stato mandato lì per lavorare. Oddio. Invece poi da lì viene mandato prima a Bolzano, dove c'è un primo centro, diciamo, di smistamento è terribile, e poi da lì si ritrova a Mauthausen. Solo che, se no non sarei qui a raccontarlo, no, certo, chiaramente. Certo, sei nato dopo, per cui... La fine della guerra. No, lui è scappato, pensa, una storia stranissima. Cioè, ma che bella storia. Perché è stato trasferito, pensa alla follia, lui da Mauthausen venne trasferito 100 km dietro, perché questi... maledetti, non viene sì, altro. Non c'è altro, nel momento in cui il fronte russo sta avanzando invece di liberare questi poveri disgraziati, lì arretravano perché continuavano a usarli come schiavi per fare 3.000 lavori che servivano. Allora lui, insieme ad altri, che era ancora fresco, è terribile dire sta roba, sì. Però lui, quando lo raccontava, diceva era io ero ancora fresco, certo. Perché era appena arrivato, viene trasferito con altri in quest'altro campo che sta vicino a uno snodo ferroviario, e quindi nel costruirlo però si trovavano sotto i bombardamenti, certo, anglo-americani tutto il giorno. Per cui chi non moriva per mano tedesca, moriva per mano anche per mano degli alleati. Questo purtroppo era la grande tragedia. Una notte pioveva tutto quanto, l'ennesimo bombardamento, chiaramente le guardie tedesche scappavano e loro si sono trovati chiusi dentro una latrina, e papà ha detto, da incoscienti, perché non è che sapevamo, certo. Lui e questo amico suo Brescia, che era un alpino, Ugo si chiamava, insomma, scappano. Papà dice: siamo scappati verso una foresta, senza una mensa, non sapevamo niente, sai, quelle certo, cose che i film, sei, no? Certo. Le stelle, le cose, ci facciamo. E si sono salvati semplicemente perché pioveva e quindi i cani non hanno trovato le tracce. Poi da lì è iniziata la grande fuga per finire in Jugoslavia, essere arrestati dai partigiani slavi, e poi papà, che risultava invece combattente della Brigata Garibaldi, insomma ritrovano le documentazioni, e a maggio sembra che mi stia raccontando l'ultima trama del tuo ultimo film. È pazzesca quanto la vita tante volte supera la realtà. E mio padre pensa che è stato per anni segretario di questa ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, tutto quanto, mi invitava, io cominciavo a fare l'attore, a leggere libri di persone che scrivevano. Lui mi ha sempre raccontato il prima, mi ha sempre raccontato il dopo, ma il non mi ha mai raccontato il durante. Pazzesco. Che bella cosa, è appena cominciata la nostra intervista con Massimo Ghini, a tra pochissimo. Voi Sanatomi, veramente emozionante, grazie. Voi Sanatomi. Stavamo ancora parlando di questa storia straordinaria della famiglia. D'altronde uno è quello che la sua famiglia gli ha insegnato, è stato, i valori, la lealtà. Quello penso di sì. Poi, insomma, sì, dai. Con le mie contraddizioni sicuramente, gli errori, se no uno si... Però credo di essere stato tirato su, come era una volta, in maniera un po' rigida su determinate cose. Però, sì, Massimo Ghini, sì. Io ripeto il tuo nome perché giustamente il mio editore dice devi ripetere il nome delle persone che sono te, perché tante volte non le riconosci, ma tante volte può sfuggire il nome della persona che ti affianca, ed è un grosso peccato. Perché io ti chiamerò Massimo Ghini ogni 10 secondi. Certo, tu ti chiami Massimo Ghini? Sì, sì, sì. Ti sì, piace sì. Questa cosa? Mi è piaciuto, guarda, mi hanno detto, dice fai Massimo Ghini, quando entro da dentro ho detto vabbè, io faccio oggi, mi conviene. Però ho scoperto che ci vorrebbero molti più blocchi per stare insieme, perché hai fatto tantissime cose, io le so, ma poi scoprendole e camminandoci dentro, ognuna di queste domande merita un quarto d'ora a 20 minuti di risposte, come la storia straordinaria della tua famiglia e di papà. Papà poi l'hai perso giovane, quanti anni aveva? Papà aveva 69, quindi insomma è morto abbastanza giovane, sì, devo dire. Racconta quello che adesso la media d'età, però ha vissuto una vita veramente intensa. Devo dire di sì, perché poi insomma è rimasto in politica, papà è stato anche prosindaco qui a Roma e faceva parte un po' di quella vecchia generazione. Mi apri un link oggi, ma non ne parliamo, non è la nostra trasmissione, non possiamo parlare. Rispettiamo assolutamente le regole, assolutamente sì. Senti, l'ho detto, hai lavorato con dei registi straordinari, ma teatro con Streller, che cosa hai fatto con Streller? Io ho debuttato. Hai debuttato con Streller, cioè hai cominciato con Giorgio Streller. Perché? Beh, era successo questo, non all'Accademia. Startup e niente male. Ma hanno bocciato. Io mi sono presentato all'esame d'ammissione in Accademia e non mi hanno preso. Certo. Tutto filmato da Corrado Augias. Vuoi sapere che bello? Pensa che cosa pazzesca. Lui che di misteri se ne intende, il mistero. Beh, Ghini. È oramai diventato quello. E me lo regalò. Mi piace ricordare una persona che non c'è più, un'amica nostra, che era Monica Scattini. Ah, che carina. Sì, ciao. Mia compagna, come dire, di lavoro, di vita, amica, sì, e sì. Tutto. E noi ci presentammo insieme a fare l'esame d'ammissione in Accademia. C'era anche un terzo che tu conosci, che si chiama l'uomo alto Stefano De Sando. Oh, grande voce di De Niro. Abbiamo avuto ospite qui, ecco. Il 70. Ormai lui è Don Vito Corleone. È diventato quello. Ecco, immagina, io, Stefano e Monica ci presentiamo insieme. Corrado Augias sa da Monica di questa storia, dal padre credo di Monica, Luigi Scattini, regista. Sì, regista. E insomma viene con una truppa a riprenderci perché iniziava questo documentario sul mondo degli attori e voleva la prima puntata era come si comincia. Ecco. Quindi viene e ci riprende, pensa. Per cui c'è la testimonianza. C'è filmata, io l'ho fatta pure vedere una volta. Che cosa hai portato, per curiosità, come testo? Lì, il testo avevo portato il Lorenzaccio di De Musset, adesso sì, partiranno subito a cercare su Wikipedia di che cosa si tratta. Però lì si vede che faccio recito Casa di Bambola di Ibsen, faccio delle cose, parlo tanto come al solito, a sproposito, come sempre in vita mia, in bianco e nero, con i capelli lunghi, diciottenne. Per fartela breve, mi bocciano a me, a Monica e a Stefano. E a Stefano. Monica parte per l'America, io faccio il militare invece, perché all'epoca si faceva il militare, esatto, pensa che mazzata, una dietro l'altra, pum pum. Quindi per un anno sono fuori dal giro, quando ritorno vado a Milano, mi presento, faccio i provini per il Re Lear di Shakespeare. Beh. e Streller mi prende. A quel punto la domanda fu: qualcuno se sarà sbagliato? Esatto. O l'Accademia o Streller. E Streller mi porta, pensa, a Parigi, al Teatro Odeon, mi porta, porta la compagnia, sì, la compagnia, allo spettacolo. Certo, io sì. Dicevo due battute, boh, no, due per dire, capito. Una e una due. Va bene così, fine. Massimo, non te prendeva Streller, no, a caso. No, però, no, eh. No, però insomma è stato bellissimo perché mi ha dato... Beh, la forza di continuare. Sì, perché lo schiaffo sono della bocciatura forte. Era... E come io ci vuole a Draghetti che al centro sperimentale... 30 anni fa abbiamo fatto domanda all'esame, arrivati in finale, ne prendevano 10, noi siamo arrivati 11esimi, 12esimi e 13esimi idonei ma non ammessi. Ho detto: ma che vuol dire? Se rinunciano 30 di voi. Ho detto: va bene. Però se non fosse andata così non sarebbe mai nata l'Allegra Brigata e certo. Poi dopodiché la premiata ditta. Ma lì tiri fuori lo stimolo, le palle per poter credere fortemente in quello che vuoi. Mi ero sentito molto offeso perché poi volevo proprio fare, era l'unica scuola che avrei voluto fare e dove sì, avrei studiato. Devo dire che è l'unica che continua ad essere valida, insomma, adesso ha ripreso un po' i suoi colori l'Accademia Nazionale dell'Arte Drammatica, la Silvio D'Amico, sia, però è l'Accademia. Sto sempre, quando mi chiedono qualche cosa, io dico: fai l'Accademia, fai il centro. Sì, sì, assolutamente. Sì. Si poi... parte da quello. Mi piacerebbe adesso con orgoglio tornare a insegnare, sai quelle cose sì. Come... i film hollywoodiani. Mi è successo torna, al centro no? sperimentale di fare 2 anni professore di doppiaggio al centro sperimentale. Sono quelle piccole rivincite, sì. Però positive, nel senso, mai la rabbia è finita, no, anzi no, meno male. No. È come quando giocavo a pallone. È bello per la biografia. Poi, esatto, perché io giocavo a pallone col Banco Roma, Tempestilli giocava con me, poi Tempestilli andò avanti, io no, però lo ringrazio. Prima la radio, mannaggia la miseria, poi invece grazie a Tonino che mi hai permesso poi di fare un mestiere che amo profondamente. Senti, nel 1984 invece Giuseppe Bertolucci ti inserisce nel cast di Segreti Segreti, nel ruolo molto apprezzato del Capitano Felice, e qui recita sì. Canta Stefania Sandrelli. Com'è stato lavorare con loro? Ma guarda, a parte bellissimo, era all'inizio, quindi era tutto emozionante. Considera che finisco di fare quello e vado in Spagna a fare un film con Antonio Banderas. Ti puoi immaginare? Prima dei Vai Biscotti è stato questo. Molto prima, non c'era neanche la gallina, non c'era nessuno. Non c'era nessuno, era ancora Banderas. E girammo questo film in Spagna, eravamo due illustri sconosciuti anche a noi stessi in qualche maniera. Per ti preoccupare cui... sì sì no, uno squillo è normale, figlia che chiama giustamente, vabbè, chiede dai. La notizia del padre. E quindi quell'anno lì venivo anche da Angela Molina in quel film là. È vero. Poi la incontro, cioè c'ho tutto lavorato. Un giro sì, perché poi hai lavorato pure, hai fatto Roberto Rossellini nel film in celluloide sì. E hai lavorato con Christopher Walken. Con chi se vuole. Sì, ho capito, sì. Però dai. Quando me lo sono trovato davanti, le risate, devo dire, le risate. Che ha fatto la roulette russa insieme a lui. Il cacciatore. Gliel'ho citato subito, no, perché è arrivato il primo giorno e ha detto: please, no picture, no interview, no. Che non voleva parlare con nessuno. Io ho avuto la fortuna di lavorare con molti attori americani e oramai so com'è la prassi. Cioè, il primo giorno, quando arrivano, fanno casino. Con noi. Non è tanto fan, cercano di mettere, secondo me, per la coda di paglia del loro passato di cowboy, voglio dire, alla fine. e allora cercano di mettere una distanza. Poi dopo capiscono che c'hai due braccia, due mani, no? Due occhi, intorno esatto. A male come loro. Poi sono diventati, con lui è finita andando a Positano. Poi, non vanno arrestato. Con lui no. No, no gli hai detto però, con Sean Penn sì, ma però, con te. Però nel film mi fa ridere una cosa, questa è molto italiana, ce la vediamo. Allora, lui racconta una storia vera, un personaggio vero, realmente esistito, nella storia di Celluloide, fu questo sergente americano che, uscendo fuori da una balera dove si ballava lì a Via degli Avignoni, si inciampa su questo filo, lo segue e arriva sotto dove stanno facendo dentro una cantina le scene di Roma Città Aperta e trova questi vestiti da nazisti. Roma era stata appena liberata dagli americani. Questo mette mano quasi alla pistola perché questo, no è firme. Questo qua gli dice a Rossellini: io sono figlio di un distributore, cioè lavoro una distribuzione americana, io tornerò adesso, finisco di fare la guerra, torno, vengo, prendo le pizze e le porto in America. E Rossellini ha detto: sì, vabbè. Invece è successo veramente così. Questo era un militare, ha finito l'Italia del Nord, insomma, alla fine della guerra, è tornato, si è presentato, si prese le pizze di Roma Città Aperta. Di Roma Città Aperta, e Roma Città Aperta poi è stato proiettato per un anno al Lincoln Center. Eh sì, il titolo Open City. Successo forse unico, rimane nella storia del cinema. La cosa meravigliosa è quando arriva Christopher Walken sul set, lo vedo vestito da maggiore. mentre la storia che sapevamo che era questo qua era un sergente. Si è aumentato di grado da solo. No, è quella cosa un po' italiana che insomma, sai, di stata maggiore è più bella di quella. Sì. Ho capito, dico. Che vuol dire? Eri sergente. Perché c'è in noi questa questa come dire, questa aumentato. Disposizione a essere un po' ruffianetti, cioè, capito? È una bella divisa da io ti ho costruito che... Dico, scusa, ma quella storia è un sergente. E c'è scritto. No, però la divisa da Christopher Walken non glielo dico. No, cosa sergente. Allora è diventato un maggiore degli Stati Uniti. E poi un grandissimo regista, adesso sta avendo un grandissimo successo anche con il suo nuovo film, Paolo Virzì, sì. Che ti ha diretto nella vita bella e tutta la vita davanti. Sì. Con lui credo lavorare sia bello, cioè, è una bella persona. Sai, con Paolo poi... Siamo talmente amici, nel senso che noi abbiamo cominciato prima ancora del suo primo film, La Bella Vita, insieme a Sabrina Ferilli e a Claudio Bigagli, fu il film che lanciò Paolo, insomma, andammo a Venezia, sì. Quindi ci lega un'amicizia perché noi abbiamo vissuto anche per un periodo un po' tutti insieme, io, lui, Fabrizio Bentivoglio, Rubini, eravamo un po' il gruppone. Mm-hmm. E quindi questo ci lega. Quando siamo arrivati a girare il primo film, lui era già un po' che... scriveva, era l'allievo prediletto di Scarpelli, insomma, di questo gruppo qua. E poi da quando è cominciata appunto questa avventura, però è rimasta lo stesso l'amicizia, cioè io sono andato in matrimonio, di pazzo, è bravo, e è sempre stato un bravissimo artigiano. Mi proprio. Spendo per quest'ultimo sì, film, bravo, veramente, bene. Perché Pazzi di Gioia Pazzi è... di Gioia. Uno forse dei più bei film degli ultimi 10 anni. Guarda, lo dico, sì, ho scritto a Paolo, insomma, non sei il protagonista. No, cui... non sono il protagonista, non è quello, non devo far film con Paolo dopo. Che, non che c'ho bello è parlare bene delle persone? Vai è al bello. Cinema, certo, vedi un film in cui Paolo oramai sta a una maturità tale di regia. Di... Può rappresentare l'Italia agli Oscar, per cui? Beh, io penso proprio racconta di racconta sì. Una storia penso italiana. Penso proprio di sì. Le due attrici, Michela... Ramazzotti. E Ramazzotti, sì, no? Dico, e Valeria Brunelleschi sono sublimi. Credimi. Sì, poi se c'è la mano sublimi. Che ti dirige alla grande, dai, sublimi, sta tutto sublimi, lì. Sublimi, proprio. Qual è il regista con cui ti sei trovato bene? Meglio che tuttora. Ma guarda, io ho parecchi affetti, nel senso che dico sempre che Zeffirelli mi ha dato il senso della grandezza. Che persona, con Paolo e Alessandro Dalatri ho trovato la complicità dei. Bello passare dal film con la Streller al film con Neri Parenti, certo. Con sempre grande professionalità, perché serie A, serie B, perché serie no? Non c'è, perché no? Perché no? Perché no? Quello è bellissimo. Ci sentiamo un pezzetto e andiamo in pubblicità, quello per stare sì. L'ultimo blocco con lui, Ghini e l'amico Cristian De Sica. Un attimo, vai. Ma dico io, 8 milioni di persone che ci stanno a Rio, ma proprio quando dobbiamo venire? E senza soldi, senza passaporto. Per fortuna che avevamo l'indirizzo di questa signora gentile. Non so io perché è gentile, a Buzzicozza. Buzzicozza? Buzzicona cozza. Ha fatto una crasi? Ma questo è scappato, non mi sono accorto, ma è strano perché di solito fa nebulle. Allora l'agenzia che dice? Si è preoccupato. Ma lei insista, no? Per te, Patani. Ah, obrigado. Tu invece vieni con me in camera da letto. Io vorrei prendere meglio le tue misure. Non se ne parla proprio. Ma se poi non ci entra? Ma ci puoi giurare? Senta, mi dispiace, devo fare una telefonata urgente. Ma la faccio io la telefonata urgente, non si preoccupi. Vada, vada. Certo. Vada. Bocca al lupo. Se mancula la balena. Voice Anatomy. Ultimo blocco della trasmissione Voice Anatomy qui in Radio 24, 16:46 primi e 36 secondi. Massimo Ghini al mio fianco per accompagnarci gli ultimi 10 minuti insieme. Siamo senza campionato, per cui non so se devo collegarmi con Pardo, con Capuano. Possiamo collegarci? Sì, volevo. Visto che sì, alla fine, gli ultimi 2-3 minuti con Massimo, almeno non c'è né Roma né Lazio, io vorrei presentargli mai una gioia a Massimo e capire. Senti, a proposito, qui l'autore Mauro Meconi, non l'attore Mauro Meconi, che ti ha... Amico. All'amico, ha costruito queste domande, gli piace ricordare, l'avrei ricordato anch'io, raccontami una serie di successo enorme. Ma perché non ha avuto un seguito quella serie? Cioè, ovviamente fanno il seguito di cose senza seguito. Mi corre l'obbligo a questo punto. Roberto, lui lo sa che è una ferita aperta e ha detto fagli sta domanda. È una ferita molto aperta. Io tanto l'ho detto sui giornali, ma non, ancora non riesco a capire perché un signore che si chiamava Del Noce decise a un certo momento di bloccare. Pensa, forse e chiudo periodo. Con questo, sì. C'è ancora vivo e presente un comitato che c'è su Facebook, che vuole, raccontami. Quelli che aspettano la terza serie, renditi conto, sì, ancora dopo tanti era anni. Bella, sì. Intellettualmente onesta, raccontava un periodo storico, cresceva insieme alla fine, anche proprio logisticamente per il pubblico generalista della Rai, direi uno, se ti era la morte sua, no? Raccontare tutto quello che mi è successo in giro per il mondo. Sì, quello, poi lo vedono dappertutto. Io ovunque sono andato ho avuto feste fatte dagli italiani all'estero, mi devi credere. Dici, ho fatto Zeffirelli, ho fatto questo. Detto racconto, mi racconto. Luciana a New York. Luciana. E niente, ancora ce lo chiediamo, però a questo punto bisogna pensare che quelle 24 puntate che sono rimaste, sì, sono diventate di culto perché le replicano oramai, sì, in maniera fissa. La produzione chi era, disse, che potrebbe ritornare a bomba sulla signora, no, Andreatta, e magari chiedere, ma la non possibilità, non lo so, di... hanno deciso di fare un'altra cosa che non ha avuto però lo stesso tipo di audience. Vabbè, successo, non... mi fermo qui, sì, grazie, la prossima domanda. La prossima domanda, ti senti più un attore drammatico o un attore comico? Non aspettavo quelle domande ci fanno sempre, dice, ma ti trovi meglio, ma sai, l'attore va all'attore. Punto. Fa l'attore, cioè io lavoro e faccio Relier, benissimo, cioè tu, certo. E poi faccio il cinepanettone con Christian. Perché, con, no? Perché no? Perché non è, c'è questa voglia di classificare che non è giusta. Di semplificare che è ancora peggio. Semplificare, e ogni volta polemizzo pure con i giornalisti quando mi telefonano perché non mi piace, non si può sempre semplificare, perché semplificare significa poi superficializzare anche le cose. E invece qualche volta bisogna capire che la domanda che mi è stata fatta anche da una famosa giornalista in un'importante trasmissione televisiva, dice, ma come fa lei a passare da Francesco Rosi a Garinei, da quello? E io ho detto, guardi, dico, forse perché lo so fare, io ho detto, perché sennò perché mi chiamerebbero? Non è che so bionda, esatto, con le, esatto, cioè, non c'ho attributi particolari, ma insomma, piacevole, una robetta proprio, no, che ce n'è tanto, ma non è quello, gli ho detto, dico, se la gente ci investe del denaro su questo, dico, se l'è mai chiesto, dico, forse oggi posso dire perché lo so fare, se no perché mi chiamerebbero? Ma fai bello questo, ma ogni volta sta cosa, l'attore, basta, che è più facile essere drammatici o comici, ma che è difficile, tutto è facile, tutto è fare studi. Bene che è difficile, esatto, comunque. Poi questa trasmissione poi si occupa di questo, qui si alternano addirittura ipnotisti, vocologi, chirurghi della voce, perché c'è un mondo nel mondo dell'attore che è enorme, non è solo quello dell'attore, è quello del manager, del dottore, del comunicatore, dei nostri politici. Una volta abbiamo analizzato le voci dei politici togliendo le consonanti e studiando i DB della voce per capire che tipo di emozione racconta quella, certo, voce. È stato emozionante, voglio richiamarlo, quel medico scienziato straordinario che va a studiare le voci in quella maniera, ed è bellissimo. E ho detto anche al ministro l'altra settimana che è intervenuto, al ministro Giannini, di poter mettere nelle scuole l'italiano, ma come lingua, non come Leopardi, Manzoni, eccetera, studiare l'italiano in tutto e per tutto, con l'apostrofo, sì, esatto, senza tutto. GL, insomma, sì. O anche la voce, questo è uno strumento a fiato, uno strumento a corde, come ti piace definirlo, che andrebbe sponsorizzato alla grande, andrebbero, sì, spiegate, poi spiegate. Entriamo nello specifico, sì, però sì, insomma. Beh, bello, qui la qualcuno comunicazione ci saluta, ti salutano, complimenti per tutto quello che hai fatto. Grande Ghini, oltre al bel caratterino, noi tecnici Rai Milano non dimenticheremo mai la sua professionalità e le litigate che faceva con il regista di un programma musicale di 4-5 anni fa, fatto negli studi vicino all'aeroporto, sì, di Linate. Bravo, bravo, bravo, bravo. Vabbè, sono un po' rompiscato, ma che bello, no, è rompiscato, adesso precisi, sì, alle 16:55 facciamo il collegamento con Capuano, mi dice 55, chiudiamo, per cui devo andare. Senti, una domanda, dimmi, al volo, mentre colleghiamo, ma preferisci a Roma con la Champions League o Ghini con l'Oscar? Questa è una domanda che mi hanno fatto. T'hanno fatta? Io ho detto che volevo fare questo, volevo essere seduto sì, allo Stadio Olimpico di Roma, mm-hmm, a vedere la finale di Champions con in mano la statuetta dell'Oscar. Ho capito. Sì, no, vederla però non sai come va a finire. Gusti smell che one, una volta diceva una cosa. Non mi sei sbilanciato. Ma che se va? Vai, io non manco mai fate questa domanda. Capuano, ci sei? Sì, però così è facile uscirne. Esatto, Capuano, di qualcosa, Ghini, per favore. No, dico che così è facile uscirne, e certo, quindi prima delle 16.55 aspettiamo la risposta, quella vera, o bianco o nero, no? Meglio la statuetta dell'Oscar o la Roma che vince la Champions. E l'altra cosa è che tra le materie da studiare nelle scuole italiane bisogna mettere anche Valentino Rossi, dai. Che ha fatto? Sì, ha sì, fatto qualcosa di meraviglioso. Oggi, ha fatto l'ennesimo capolavoro della sua carriera. Ha vinto in Catalogna. Non abbiamo visto. Ha vinto Valentino Rossi. Ma io vengo apposta. Un Pino, stato non è lì che ci ha pensato un po'. Che sai, dopo che il cambio lì non andava tanto bene. Perché la moto si piegava. Insomma, non vedi che tu sei un attore comico di quelli leggeri di Serie B? Ma lo senti? Devo fare l'imitatore. Quello devi fare. Hai capito, Capua? Ho capito, capito. L'imitatore Ghini, non hai sentito? Ammazza, ha vinto. Ha vinto. Finalmente, mai una gioia, mi dà una gioia, ma se, gioia, c'era, sì, se c'era il campionato non era così, Massimo, volevo che tu capissi. Noi parliamo di una cosa che per noi è sempre molto difficile, perché noi è tutta la vita, sì, cioè noi Roma, sì, questa Roma che, divisa in queste cose, ma che vincemo mai, soffre da sempre, perché vedo sempre queste trasmissioni di altri colleghi che parlano, no, di squadre di calcio, di storie di città del, esatto, calcio dell'Argentina, del Brasile, sempre con una cosa aulica, e poi ridimensiono sempre a sta roba nostra di Roma e dico, ma perché pure noi non c'è, non ci siamo, noi ci siamo sempre solo per il colore, cioè quando fanno i servizi, sì, su noi, le curve, siccome non c'hai in bacheca, c'hai pochissimo, il resto è sempre questi racconti. C'è l'attore, c'è Claudio Amendola, c'è Massimo Ghini che ci racconta. È più quello che c'è, il valore stesso del calcio. Capua, io non so se quest'anno ricominceremo così da settembre con te a raccontare qualcosa. Ancora non abbiamo l'allenatore, noi, credo. No, non vabbè, ancora. Serve, a voi non serve adesso. Ma dai, sta aspettando, dai, sta aspettando, come sai. No? Per risparmiare, insomma, dipende. Se il Genova c'è da quello, allora abbiamo pure allenatore. Senza capire, io non ce la posso fare. Roma è storia e Lazio è geografia, ti ricordi questa? È la battuta sulla quale io mi sono salvato la sera. Esatto, che della sconfitta del derby 26 maggio. Ha sentito Valerio che non è della Roma. Lui sta qui soltanto quando la Roma gioca in trasferta. Lui fa la trasmissione con me. Cioè siamo a questi livelli di goliardia. Ma va bene, saluto anche Alessandro che ci starà ascoltando. Capuano, a parte questa gioia straordinaria di Rossi, non abbiamo altre notizie oggi. La Nazionale quando gioca la seconda? La Nazionale gioca domani sera. Domani è anche il giorno che l'Inter diventa cinese. È quasi ufficiale, quasi. Sarà domani mattina alle 9. Da una parte, ma non ci diventiamo mai né cinesi, solamente che i mani se li mettiamo davanti all'occhio, sì, diventiamo cinesi per secondo quello me noi. Sì, secondo me sì, quello. Ci abbiamo dei tifosi però, io che abito in un quartiere dove c'è una bella Vittorio, presenza, sì, sto qua vicino in mezzo ai cinesi e ci sono i cinesi tifosi della Roma e che seguono Totti, sai che Totti in Cina c'ha no tipo 120 Totti, milioni di contatti, no? Ma ha fatto una cosa che è equivale a un film di Frank Capra, gli ultimi partite di Totti, guarda, te lo dico con tutto il cuore. No, certo. Capuano, siamo giunti noi al termine, tu continui, sì, con tutti i convocati. Noi i tuoi iniziamo amici e continuiamo fino alle 19. I 19, gli amici tuoi me li saluti tanto. Parto, sicuramente. Un abbraccio. Parto in giro per l'Italia. Sì, isole comprese. Non li far tornare. Ti abbraccio, cara Capuano. Alla prossima. Domenica prossima. Ciao. E io saluto Massimo Ghini. Ti ringrazio tanto. È bella galoppata e me la rifarei volentieri prossimamente con molta calma quando sarei qui, perché ogni domanda che c'era un mondo dietro e vorrei ancora percorrerlo. Guarda, grazie a tutti quanti voi e grazie poi di avermi fatto sentire pure quella canzone che non... Te la diamo, te la zuppia, Valerio. Te da tutto, Valerio. È pronto a tutto. Un abbraccio a tutti. Voi sanate, mi ritorno domenica prossima. Ciao Massimo, grazie. Yeah.